Parte seconda, capitolo 12. Durante la luna di miele, che durò solo il tempo necessario a effettuare il viaggio da Redchester a Cockensey, con l'eccezione di un giorno in Olanda per presenziare a un breve, infinitamente ossequioso colloquio, o per meglio dire visita ufficiale agli eminenti De Frie, Ingeborg si disse a intervalli frequenti, così come si era detta sotto il pero in quello che le appariva ora come un indistinto passato, forse mi ci abituerò. Ma ancor prima di raggiungere Cockensey, il quarto giorno dopo essere stati uniti in matrimonio, si sentiva proclive a decidere, sebbene con una certa riluttanza, dato che ne aveva sempre sentito intesserne le lodi, che le lune di miele non facevano per lei. Robert, fortunatamente, sembrava invece apprezzare molto la sua. Era di umore placido e giocoso e dormiva rumorosamente nelle carrozze ferroviarie. I pasti non mancavano mai d'essere un momento d'allegria. A Bromberg si svegliò e di lì in poi divenne attento alla campagna che stava attraversando. Una volta addentratosi nel suo angolo di mondo, si profuse lungamente in chiacchiere, indicando e illustrando le caratteristiche distintive dei metodi agricoli impiegati nelle diverse fattorie disseminate lungo il percorso. Ingeborg ascoltava rapita, era impaziente di imparare, risoluta a diventare la sua compagna. Traboccante di gratitudine per l'avere sottratta la smisurata asfissia di Redchester, nei suoi confronti si dimostrava addirittura riverente. Si trovavano in un paese della sconfinata vastità. Lì non vi erano siepi divisorie o nette separazioni di proprietà tra un campo e l'altro, né invadenti colline come quelle che circondavano Redchester, che limitavano la visuale del cielo soprastante o del più lontano orizzonte, dipinto di squisito celeste, che si perdeva in lontananza. Quella landa era un'unica e ininterrotta distesa, una smisurata ondulazione di terra pura e generosa che si innalzava verso il cielo e digradava nuovamente verso il basso. L'aria era vivida e pungente e Ingeborg la trovò adorabile dopo essere vissuta per anni nella cappa di umidità che aleggiava perennemente sopra Redchester. Immediatamente, non appena il treno si fu arrestato in quella distesa aperta, udì il grido di un falco provenire da lontano, lassù, in qualche punto del cielo. Da Allenstein proseguirono lungo una ferrovia a scartamento ridotto, con vagoni simili a quelli di un trenino giocattolo e una minuscola locomotiva, attraverso un'infinità di campi di segale e una campagna apparentemente disabitata, sino alla stazione più vicina a Cockensey, quella di Mike, un paesotto che nutriva velleità di cittadina con un'enorme chiesa al centro, che si stagliava alla vista e, contenente tra gli altri elementi degni di nota, spiegò Herr Dremmel anche sua madre. «Oh!» esclamò Ingeborg sorpresa. «Ne hai una anche tu?» gli chiese, dato che in qualche modo le aveva sempre dato l'impressione di una persona completamente sprovvista di madre. «Tutti invariabilmente hanno una madre, tesoro mio», spiegò Herr Dremmel con pazienza. «Già», rispose Ingeborg chinandosi per prendere il cappello di lui e posandolo con attenzione sulla sua testa. «Ma in tal caso lo dicono. Forse, prima o poi. Ricordo bene comunque di averti informato che mio padre è deceduto. Da quell'informazione pertanto era possibile presumere che mia madre non lo fosse. È una donna semplice, non più giovane. Le faremo visita mentre attraverseremo la città andando verso casa». Fuori dalla stazione, pronto per condurli a Cockensey, e attendeva un veicolo notevolmente sopraelevato, trainato da due cavalli e dalla folta coda, uno dei quali superava l'altro per tutta la lunghezza del collo e della testa, cosicché se li si guardava di lato, senza però vedere che il corpo delle due bestie partiva dallo stesso punto, essi sembravano perennemente competere in una corsa. «Questa», disse Herr Dremmel presentandola con un cenno della mano, «è la mia carrozza». «E questo», proseguì presentando in modo simile anche il conducente, «è il mio fedele servitore Johan. È al mio servizio da quasi un anno». Una volta sceso a terra, dopo aver scavalcato con attenzione i sacchi di chianite che occupavano tutta la parte anteriore del veicolo, egli strinse la mano a Ingeborg molto educatamente. «Rimangono tutti così a lungo?» mormorò Herr Dremmel. «Tutti! Non vi è altri che la vedova e oramai si starà aggiustando le penne per spiccare il volo e non appena la mia piccola si sarà insediata per bene le toccherà migrare verso il nido di qualche altro scapolo». Ma non ne soffrirà? Chiese Ingeborg, che a causa del reiterato ascolto delle litanie si era abituata a considerare le vedove come creature fragili, bisognose di protezione. Immediatamente le si parò dinanzi agli occhi la visione della vedova in questione, tiranneggiata, messa alla porta e inseguita dall'eco degli anatemi lanciati al suo indirizzo in corrispondenza di ogni sosta, che sbatacchiava desolatamente le ali sopra i campi della Prussia orientale. Ne soffrirà di certo. Anche lei del resto è stata molto fedele. Sta con me da quasi 8 mesi, ma anche se lo fosse da meno, proverebbe comunque pena. Del resto, tutte le vedove, continuò con aria assente, occhieggiano in direzione dei sacchi di chianite per cercare il nitrato di potassio che sembrava mancare. Sono sempre estremamente sensibili. Johan, un uomo male in arnese, dall'aspetto logoro e ingrigito per la troppa fatica, suppose Ingeborg, spiegò che la preziosa sostanza aveva perso il treno e Herr Dremmel si allontanò per formulare al capostazione una serie di domande ansiose, mentre Ingeborg rimase lì, sorridendo con eccessiva familiarità a Johanna, per compensare la mancanza di parole e chiedendosi come avrebbe fatto il suo bagaglio a trovare un po' di spazio in quella carrozza stipata di sacchi fino all'inverosimile. Alla fine, la maggior parte di esso non ne trovò e fu lasciato alla stazione sino a un futuro imprecisato. Stringendo la borsa con i suoi effetti personali con una mano e afferrando saldamente il corrimano con l'altra, fu trascinata via, sobbalzando sugli enormi ciottoli che costituivano il manto stradale di Maek, accompagnata da sonori schiocchi della frusta di Johan, dai latrati dei cani e dal trambusto creato dai cavalli che venivano spronati, ma le cui lunghe code continuavano a impigliarsi nelle redini. Le tavole che formavano l'impiantito della carrozza si inclinavano aprendo dei varchi sotto i suoi piedi. I cavalli trottavano dentro e fuori da condotti scavati lungo la strada. Il suo cappello aveva ogni intenzione di volar via, ma lei non osò lasciar libera nessuna delle due mani per trattenerlo. Piegò invece la testa in avanti per tentare di contrastare l'azione dell'aria. I sobbalzi le facevano formicolare e pizzicare la pelle. Ebbe una rapida visione di case rosse, prive di staccionata, che si affacciavano direttamente sulla strada, di un negozio o due, di persone che si fermavano per osservare, e infine di paglia, carta e polvere che vorticava nell'aria. Herr Dremmel scelse proprio questi momenti congestionanti per dilungarsi nella conversazione e, alzando la voce per renderla udibile in quel tumulto, spiegò a raffiche che i 3 sacchi posti sul davanti della carrozza non erano sacchi veri e propri, bensì stomaci misteriosi riempiti di futuro. Per quanto si sforzasse di ascoltarlo, poté soltanto cogliere spizziche e bocconi del suo racconto ogni qualvolta i loro corpi collidevano. Fauci divine, ma che tiricamente apparecchiati, potenziale energia. Ingeborg trovò estremamente difficile offrirgli risposta a una qualsiasi affermazione raziocinante. Inoltre, la conversazione era resa ancora più difficoltosa dalle continue interruzioni di Herr Dremmel, che si sporgeva in avanti per colpire i tafani che si posavano sulla nuca di Johan. E ogni volta Johan trasaliva e i cavalli scalciavano. «È un servitore fedele», le gridò in un orecchio. «Con me da quasi un anno. Non voglio che venga, punto». Fu una Ingeborg stralunata e ansimante, quella che si ritrovò nell'andito dell'abitazione dell'anziana Frau Dremmel, sfregandosi gli occhi tentando di liberarli da numerosi corpi estranei. La porta era socchiusa. Robert l'aprì con una spinta e chiamò ad alta voce la madre. «Si nasconde! Si nasconde!» disse, guardando con impazienza l'orologio e gridando con rinnovato vigore. «Ma ci sta aspettando?» chiese infine Ingeborg mentre tentava di fissare le ciocche ribelli con alcune forcine. «È una donna semplice», disse, «di conseguenza non aspetta mai nessuno». E con una spinta dischiuse un'altra porta dalla quale non uscì nulla se non oscurità e una gelida folata pregna di odore di muffa. «Qui non c'è», affermò richiudendo la porta. «Sapeva che saremmo arrivati a casa oggi?» domandò Ingeborg mentre un dubbio le iniziava a insinuarsi nella mente. «È una donna semplice, di conseguenza non sa mai niente. Madre? Madre! Ma sa almeno che ti sei sposato?» gli domandò Ingeborg mentre il dubbio prendeva corpo. «È una donna semplice, di conseguenza all'improvviso si interruppe e la fissò, riflettendo. È mai possibile che mi sia dimenticato di dirglielo?» considerò. «Evidentemente, Era possibile, poiché in quel momento Frau Dremel si materializzò da una zona sottostante, salendo lentamente alcuni gradini che si trovavano in fondo all'andito, e rivelando la presenza del figlio di quella ragazza dall'aspetto bizzarro, rimase immobile, completamente muta. «Madre, questa è mia moglie», disse Herr Dremel, prendendo Ingeborg per mano e conducendola presso la figura immobile. «Ah!» disse Frau Dremel senza muoversi. «Su, piccola, baciala», ordinò Herr Dremel. «Sì», rispose Ingeborg con il viso imporporato di un vivido rosso e avanzando di un passo convulso nella sua direzione. Frau Dremel la stava osservando con occhi tetri, dallo sguardo immobile, occhi che avevano la vacuità delle pietre. Dalla vita in giù indossava un ampio grembiule di color blu. Era totalmente disadorna. Il suo abito terminava bruscamente all'altezza del collo con una chiusura costituita da un gancio e da un'asola. I capelli erano raccolti nella più minuscola delle crocchie. Ingeborg improvvisamente sentì che la sua figura appariva vistosa, ricoperta di fronzoli e abbigliata in modo sgargiante, con quel colletto bianco e quel cappello che sino ad allora aveva considerato castigato, ma che adesso percepiva come il più mostruoso degli orpelli, calcato a forza su una chioma fissata da un numero insufficiente di forcine. «Questa sarebbe tua moglie?» chiese l'anziana Frau Dremel, roteando lentamente gli occhi di pietra dalla figura del figlio a quella di Ingeborg. «Certo», rispose Herr Dremel. A Ingeborg in inglese disse: «Baciala, piccola, così proseguiremo verso casa». Anche egli mise un braccio attorno alla spalla di sua madre e le diede un bacio frettoloso. «Mia moglie è inglese», spiegò, «non parla né comprende ancora la nostra lingua. Baciatela, madre, così ce ne andremo a casa». Sembrava comunque impossibile far sì che le due donne si baciassero. Ingeborg avanzò di un altro timido passo. Frau Dremel rimase immobile. «Questa», disse Frau Dremel, facendo scivolare lo sguardo inerte con lentezza lungo la figura di Ingeborg e fissandolo poi sul figlio, «sarebbe la moglie di un pastore». «Senza dubbio. Mi spiace di aver tralasciato di comunicarvelo, madre. Capita, occasionalmente, che sfugga qualcosa di vista». E in inglese a Ingeborg: «È una donna semplice, di conseguenza». «Ma io ho saputo», aggiunse Frau Dremel, «dalla tua domestica e da altri. Ecco il modo in cui sono venuta a sapere del matrimonio del mio unico figlio. Io, una vedova». Ingeborg, non capendo, continuò a sorridere nervosamente. Pensava che in quell'occasione qualcuno avrebbe dovuto sorridere, ma trovava particolarmente difficile farlo. Quell'andito spoglio, malsano, il sentore di muffa che si riversava fuori dall'unica porta che vi si affacciava, l'immobilità di Frau Dremel, i cui occhi sembravano essere il solo elemento del suo corpo in grado di muoversi, nonché l'aria di squallida povertà che emanava dalla sua persona, una povertà che sembrava ritenersi virtuosa, ma chissà mai per quale motivo, dato che l'unica spiegazione evidente era che la vecchia non possedeva nulla, non l'incoraggiavano certo a sorridere. Ma lei era una sposa, appena giunta a casa, una sposa che veniva presentata alla famiglia del marito. Qualcuno doveva pur sorridere e Ingeborg, addestrata com'era da suo padre a sobbarcarsi tutto ciò che gli altri non volevano fare, fornì tutti i sorrisi che si sarebbero dovuti elargire in occasione del ritorno a casa. «Per favore, Robert, di a tua madre quanto mi dispiace il fatto di non poter parlare», gli chiese. «Dille quanto mi avvilisca il dover far scena muti in un momento come questo». «Quanto ha?» chiese Frau Dremel, senza attendere che Ingeborg finisse di parlare. «A sufficienza, a sufficienza», le rispose il figlio, mettendosi il cappello e producendo gesti che suggerivano il commiato. Non mi ha dato sapere. Ancora segreti? Di certo verrà speso tutto per proseguire quell'irragionevole manipolazione dei raccolti di Dio». Herr Dremel depose un secondo bacio distratto in un punto a caso sulla fronte di sua madre. Da un quarto di secolo oramai non ascoltava ciò che ella diceva. «Niente per la madre», proseguì. «No, niente. La madre è solo una vedova, è una persona di nessun conto. Eppure quel santo di tuo padre, arrivederci e che Dio sia con voi». Fu il saluto che Herr Dremel le porse percorrendo l'andito in direzione della porta e dimenticandosi, nella fretta di arrivare a casa con sua moglie il più presto possibile, di portarla con sé. Per un attimo rimase sola di fronte alla parente di nuova acquisizione. Arrossendo repentinamente e compiendo un terribile sforzo, si cimentò nell'atto filiale di prendere tra le sue la mano passiva della suocera. Aveva inteso baciarla, ma dopo aver guardato dentro a quegli occhi, trovò il baciare in ultima analisi impossibile. Con timidezza mormorò una breve formula di saluto in inglese e con straziante imbarazzo si trascinò fuori di casa. A tutti! Ne tocca una, fu l'unico commento di Herr Dremmel. Kokensee distava 3 miglia dalla strada principale che collegava Mach a Wiesenhausen. Per tutto il tragitto, oltre i campi, si stagliarono dinanzi ai loro occhi le guglie della piccola chiesa del paese. La strada, tracciata con il minor numero possibile di curve, si elevava e digradava dolcemente tra i campi di segale. Lungo entrambi i lati si allineavano con precisione due filari di frassini. Quel giorno in piena fioritura, e il terreno era scolorito e compatto come se non piovesse da lungo tempo. Il vento soffiava allegramente, facendo ondeggiare la segale nei campi, e il cielo era punteggiato da candidi cirri. Alla vista di Ingeborg si offriva un panorama che spaziava per miglia e miglia. Vi era la linea scura che segnava il punto dove la foresta si arrestava e fiammate di giallo dove cresceva la ginestra. Poi rilucenti frammenti di specchi d'acqua, oltre alle allodole, la cui melodia instillava gioia pura. Poi ancora, sulla sommità delle colline più elevate, i mulini a vento in azione. Tutto il mondo sembrava ridere, gioire e cantare all'unisono. «Com'è incantevole! Sì, incantevole!» esclamò. «Incantevole? Ti dico io che cos'è incantevole? Il bel terreno rosso e fertile della tua terra natale!» Quello e le piogge incessanti, piogge mandate da Dio stesso. Dopo essersi sporto in avanti per chiedere a Johann quanto fosse piovuto l'ultima volta e nell'udire che c'era caduto 3 settimane prima, assunse un'espressione torva e borbottò tra sé in tedesco. Sembravano essere parole poco consone a un pastore, poiché Ingeborg vide le orecchie di Johann sollevarsi per via di quello che dall'ultima parte della testa doveva evidentemente essere un sorriso. Un cartello sbiadito dall'azione delle intemperie indicava disgimbescio un sentiero che partiva ad angolo retto dal lato destro della carreggiata. Barcollando e sobbalzando, la carrozza imboccò la strada sterrata. Immediatamente ogni suono cessò. Oltre alle allodole, Ingeborg riusciva a sentire il canto di tutti gli altri uccelli: fringuelli, cince, zigoli gialli, capi nere. La carrozza procedeva a fatica sul suolo sabbioso, tra campi di segale sempre meno floridi di metro in metro. Ora i cavalli erano stanchi e grondavano sudore. Di fronte a loro, sul lato di un pendio, si ergeva Kochense, formata da una lunga strada sparsamente punteggiata da casette, la cui facciata era orientata in direzione del tramonto. Alle loro spalle la chiesa. E accanto alla chiesa due tigli, che lo sapeva per esserselo fatto raccontare da lui, si vedevano da casa sua. Ingeborg sentì una fitta al cuore. Ecco il luogo che conteneva tutto il suo futuro. Supponeva che in avvenire non vi sarebbe stato più nulla che il suo cuore avrebbe potuto provare se non avesse già provato in quel luogo. Gli anni si dispiegarono dinanzi a lei, ampie tele ancora intonse sulle quali quanto prima avrebbe tratteggiato l'abbozzo della sua vita. Sarebbe stato un bel dipinto, si disse, in un impeto di orgogliosa fiducia. Non bello per via di un dono che la natura le avesse elargito o di una particolare capacità da lei posseduta, dato che non aveva mai conosciuto donna meno dotata di lei, ma bello per l'assiduo e infaticabile apposizione dei ritocchi, per l'incessante cura di ogni dettaglio e per la paziente correzione di ogni suo errore. Ogni pennellata, ogni singolo particolare avrebbe conferito al quadro una calda luminosità e i toni della felicità. Frammenti esultanti del libro delle preghiere, il libro che in assoluto conosceva meglio di ogni altro, le riecheggiarono nelle orecchie. Levate i vostri cuori, leviamo i nostri cuori al Signore nostro Dio. Oh, che belle parole, che bel mondo e che vita meravigliosa e radiosa. Quando il diavolo, disse Herr Dremmel, che aveva scrutato i campi pronti per il raccolto da entrambi i lati del sentiero con un crescente senso di depressione, portò il nostro Salvatore sulle sommità del colle per tentarlo con l'offerta dei regni della terra, stette ben attento a nascondere Hawkins sotto la sua coda dispiegata, tanto era brutta e indesiderabile. Oh, il diavolo! Rispose Ingeborg, scrollando le spalle e liquidando l'argomento con un tono di benevolo sprezzo. l'espressione del viso ancora radiosa per i pensieri testé formulati. Si girò verso di lui e rise. «Di certo non ti ha dato sapere anche ciò che è in mente il diavolo», lo rimproverò dolcemente. Poi, lasciando scivolare la mano attraverso il suo braccio, sollevò il capo in un moto di orgogliosa gioia. Lui le sorrise di rimando. «Mio tesoro», le disse, realizzando per un attimo quanto fosse prezioso ciò che aveva tra le mani e che stava per portarsi a casa. La carrozza, oltrepassando un varco tra due villini, venne trainata fuori dalla sabbia fin sui ciottoli che costituivano il manto stradale del villaggio e con un ultimo supremo sacrificio a opera dei cavalli, fu rimorchiata con una serie ininterrotta di sobbalzi dovuti alle numerose buche presenti sul lato opposto oltre un cancello. Lì vi era un cortile con alcuni ricoveri per gli animali, un aratro, una letamaia, alcune oche galline, un maiale, due tigli e fra di essi, oltre una rete metallica, una casa a un piano, dall'aria veneranda che Herr Dremmel, nel fermarvisi di fronte, le presentò con una certa ufficialità. «La mia casa», disse con un cenno dimostrativo della mano. Capitolo 13. Per Ingeborg seguì un periodo di sorprendente felicità. Si trattava della felicità dell'alunno che sfugge alle lezioni e che si gode in totale beatitudine la libertà e l'assenza di rimprovero. È vero che la vedova che si occupava della casa proiettava una leggera ombra su quel fulgido inizio, dato che per così dire risultò dura morire. Il suo corpo, infatti, si ostinava nell'attaccarsi a quella vita che aveva condotto. Lamentava per 8 lunghi mesi. Spiegò di essere l'ultima delle vedove che avevano prestato servizio presso Herr Pastor, il cui numero era possibile contare a ritroso fino al giorno che lo vide arrivare, traboccante di gioventù, a prendersi cura delle anime di Kökense. Infine, arguì che se era rimasta più a lungo delle altre significava che era la migliore. Rimase quindi presso la canonica incollandovisi in modo tenace per un periodo supplementare, con il pretesto di introdurre Ingeborg all'usanza della casa. E ogni volta che Herr Dremmel effettivamente restiva a imbarcarsi in una controversia con lei menzionava i treni, ella in sua presenza si prostrava in preghiera, implorando Dio ad alta voce che Herr Pastor fosse risparmiata la conoscenza delle condizioni di vedovo. Alla fine, comunque, la destituzione fu portata a compimento e una volta sgomberato il campo da quella presenza, la felicità fu totale. Ingeborg era abbastanza giovane per considerare la conduzione della casa senza l'ausilio di domestici un'attività affascinante e divertente. Herr Dremmel non attribuiva la minima importanza a cosa, quando e se avrebbe mangiato. Si era all'inizio dell'estate e lei trovava delizioso alzarsi all'alba per gironzolare in cucina, svolgendo piccole incombenze prima che arrivasse la domestica giornata. Una ragazza nota a Kökense come la Hilse dei Müller, quali riscaldare l'acqua, preparare il caffè, apparecchiare per la colazione un lindo tavolino in un qualche angolo del giardino e decorarlo con fiori appena colti. Poi ancora disporre il burro su giovani foglie e orientare il vaso del miele in modo tale che un raggio di sole, trovando un varco tra i rami, vi si dirigesse sopra trasformandolo in un tripudio di luce dorata. Era uno di quei tavoli per la colazione illustrati nei libri di fiabe e Herr Dremmel si abbatteva sulla sua fragilità come una disastrosa catastrofe geologica. E dopo quei pochi attimi convulsi non rimaneva altro che briciole e macchie di caffè. Poi calzava le galosce e si dirigeva con Johann verso i terreni di sperimentazione, mentre lei si accingeva con entusiasmo al disbrigo delle faccende della giornata. Non era in grado di comunicare con Hilse, una ragazza squadrata dalle gambe decisamente massicce, poiché nonostante girasse sempre con il libro di grammatica tedesca in mano, aveva scoperto che ciò che aveva imparato non corrispondeva mai a quello che aveva intenzione di dire. La gonna corta che la domestica portava denotava la mancanza di calze e quando Ingeborg, esprimendosi a gesti, producendone un paio, le diede a intendere che sarebbe stato bene indossarle, Hilse alzò la voce, sostenendo di non aver soldi a sufficienza per procurarsi un marito, ma che perlomeno, Gott sei Dank, aveva due buone gambe e che se Frau Pastor richiedeva che le nascondesse e che di conseguenza abbandonasse ogni speranza di maritarsi, allora sarebbe stato meglio che Frau Pastor si fosse messa a cercare una ragazza alla quale erano cresciute storte oppure stecchite e che per quella ragione sarebbe stata fin troppo lieta di coprirsele. Ingeborg, non comprendendo una singola parola, ma percependo una certa ostilità, sorrise con benevolenza e mise via le calze. Le gambe di Hilse, pertanto, rimasero nude. Le due donne, impossibilitate al diverbio, lavorarono assieme in grande armonia. Essendo preclusa la conversazione, cantavano. Ingeborg, la cui memoria ne conservava innumerevoli, intonava inni, mentre Hilse preferiva interminabili ballate a squarciagola, macinando verso dopo verso in una sorta di persistente ululato. Persino le oche si arrestavano durante il loro tragitto verso lo stagno ad ascoltare in ansia. Il pranzo, che Ingeborg trovava comodo per preparare in un unico pentolone, sobbolliva placidamente sulla stufa da mezzogiorno in poi. Ci si gettava le patate, il riso, pezzetti di carne, le carote e i cavoli, poi ancora lardo e sale, ed eccolo pronto da mettere in tavola. Chiunque lo desiderasse si serviva e si saziava. Che cos'erano mai quelle misteriose difficoltà nel disbrigo delle faccende di casa, si chiese, per le quali la gente scuoteva sempre il capo. Le sue pietanze erano sempre salutari, squisite perché aveva fame o comunque sorprendentemente bollenti. Rimanevano bollenti con la medesima persistenza dei cataplasmi. Una volta, infatti, quando Hilse ebbe la mala sorte di venir punta da una vespa su una delle sue straordinarie gambe, Ingeborg, con immensa presenza di spirito, prese il pranzo, lo vuotò su una candida pezza di lino e lo usò per fasciare la zona gonfia. Pertanto, quando Herr Dremel, come accadde quel giorno, arrivò verso le due più affamato che mai, reclamando il suo pasto, venne informato che questo si trovava sulla gamba di Hilse e che avrebbe dovuto accontentarsi di alcuni panini. Egli non poté fare a meno di ammirare l'ingegnosità di Ingeborg, ma fu solo dopo aver ingurgitato diversi panini che riuscì a dirle, mentre le batteva affettuosi colpetti sulla spalla: Dio tesorino! Quello fu il periodo più affaccendato, più felice. Ogni minuto della giornata ero occupato. Era una vita vissuta con pienezza, in prima persona, non prosciugata dei suoi pregi fondamentali per mano di domestici che ne sottraevano la prima spremitura. Avere una piccola cucina tutta per sé, essere davvero padrona di ogni angolo della casa, curare la preparazione delle proprie ricette sin dall'inizio, correre fuori in giardino e raccogliere tutto ciò che il capriccio del momento comandava, stare presso la porta sul retro con la gonna piena di becchime, chiamare i polli e dar loro da mangiare, andare personalmente a cercare le uova, riempire di fiori le stanzette buie della casa e misurare il pavimento in pietra per un rivestimento da ordinare quanto prima all'unico negozio di tappeti di fiducia, vale a dire quello di Red Chester. Quali altri piaceri avrebbe mai potuto offrirle il mondo che potessero eguagliare queste gioie? La casa era un po' trascurata, ma che importava? Era impensabile diventare schiava delle pulizie, era impensabile non vivere appieno la vita dissipandola in insulse faccende domestiche. Il tempo era così bello, o perlomeno Ingeborg pensava che lo fosse. Vi era il sole più ardente che si potesse immaginare, un vento fresco e notti chiare, stellate. Robert, però, quando nel compiere l'ultima azione della giornata ascoltava il cielo impietosamente perso, oppure quando al mattino guardava come prima cosa il termometro fuori dalla finestra, affermava che era un tempo mandato dal diavolo e che se presto non fosse arrivata la pioggia, tutti i suoi fertilizzanti, i suoi sforzi e i suoi esborsi si sarebbero rivelati vani. Ingeborg, sulla cui felicità quelle parole gettavano una fugace ombra, trovava comunque impossibile non deliziarsi in quella luce. Si beava, per esempio, di starsene fuori in giardino, oltre tigli, proprio sul suo limitare, dove era possibile sostare nel varco tra le siepi di lilà e lasciar spaziare lo sguardo sulle immense distese di campi di segale, così sterminate, infinite, colorate di grigio e tenue verde, che digradavano per poi rimontare e la cui massa di spighe incessantemente ondeggiante risplendeva sotto i raggi del sole e si imbruniva quando passava una nuvola. Di lì lo sguardo si spingeva ancora più oltre, in lontananza sino alla fine di tutto, fermandosi solo quando arrivava alla linea dell'orizzonte. In quel luogo dove bisognava ripararsi gli occhi, tanto intensa era la luce, che avrebbe mai potuto trovare nulla da ridire. Chi non avrebbe potuto far altro che ammirare ogni cosa? Oh sì! Veniva voglia di cantare il Te Deum, o il Magnificat, o meglio ancora l'inno della gloria. Noi ti lodiamo, noi ti benediciamo, noi ti adoriamo, noi ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Non appena vi era una mezz'ora di tempo libero, come ad esempio dopo pranzo e prima del tè, Ingebrug se le va a correre verso i tigli e passeggiando su e giù in quel luogo frondoso fra l'uva spina e l'orto, errava tra il verde e imparava a memoria alcune parole in lingua tedesca, magari calpestando qualche fiore che giaceva, poi avvizzito sotto il sole impietoso. Le parole, prese dal libro di grammatica, venivano ripetute ad alta voce più e più volte, fluentemente, meccanicamente, mentre i suoi pensieri già danzavano nel futuro, a partire dall'immediato futuro di ciò che avrebbe fatto l'indomani, il futuro di un pomeriggio trascorso sul barchino, tra le canne del lago, magari remando lentamente fino all'inizio della foresta, fino al futuro più indefinito, sebbene più coscienzioso, dei mesi a venire, quando, armata della lingua tedesca, avrebbe iniziato ad andare fra i parrocchiani più bisognosi, stringendo amicizie con i contadini e diventando a tutti gli effetti una vera moglie di pastore. In particolare, desiderava avvicinarsi alla suocera. Le sembrava che uno dei suoi primi doveri fosse compiere alcuni passi verso di lei. Trotterellava avanti e indietro, senza posa, ripetendo i corrispondenti tedeschi delle parole giganti, ombrelli, chiavi, occhiali, cera, dita, tuono, barbe, principi, barche e spalle. Le sue labbra mormoravano instancabili mentre i suoi occhi seguivano il momento degli uccellini che sfrecciavano dentro e fuori la siepe di lillà e zampettavano fra le biciole dove era stata apparecchiata la colazione. Intenta a pronunciare le parole ombrelli, giganti, chiavi, occhiali e cera, riusciva pur tuttavia a non perdere nulla di ciò che gli zigoli gialli cinguettavano apostrofandosi a vicenda. Niente formaggio e solo poche brici, cio cio cio cio ciole. Niente formaggio e solo poche brici, cio cio cio cio ciole.